Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Lo so, Chiara, è la faccia, è quella che dice che c'è il bosone. Sì, sì, ho proprio la faccia da bosone. Ecco, però ne parliamo. Prima però dobbiamo vedere un'altra roba, cioè esci dalla doccia. Ok, ne parliamo perché è la notizia della settimana, no? Sì, però incominciamo che tu esci dalla doccia e c'è lì il tuo gatto. Ah, d'accordo. Non è niente di male. No. I titoli, benvenuti a Mebius e poi incominciamo subito. Gli animali ci guardano, ma noi non vogliamo rendercene conto. Un filosofo si interroga su come dovrebbe essere molto diverso il nostro rapporto con il regno animale. Ci siamo quasi, perché è un quasi bosone. Per quello intero ci vorrà ancora qualche mese. Nanofarmaci potrebbero rivoluzionare le terapie attuali, ma a che punto è la ricerca? Verso una società a 2000 watt. Aumentare l'efficienza e ridurre i consumi senza rinunciare al benessere. È un progetto pluriennale del governo svizzero che coinvolge università, aziende e cittadini. Allora, chi è ospite questa sera in apertura di trasmissione? Felice Cimatti. Buonasera, Cimatti. Buonasera, buonasera a voi, grazie per avermi chiamato. Filosofo del linguaggio all'Università della Calabria, giusto? Sì, sì, è uno dei miei numerosi lavori, diciamo, quello che mi permette di pagare l'affitto. In linguaggio, anche quello degli animali, prima citavamo questa situazione, gatto mentre si esce dalla doccia. Cimatti ha avuto qualche problema col gatto? Non lui, ma un personaggio francese. Jacques Derrida, filosofo pure lui. Allora, cosa è successo che racconta Derrida? Derrida, un grande filosofo che scrive spesso in modo un po' complicato, scrive un libro molto bello che si intitola L'animale che dunque sono, in cui racconta proprio questa esperienza. Dice: una mattina, una volta, uscivo dalla doccia e mi trovo davanti questo gatto che mi guarda e non mi ero mai soffermato a capire che cosa stava succedendo. Mi guarda proprio e per un secondo provo una specie di brivido, perché non aveva mai preso in considerazione l'ipotesi che anche un animale, un gatto in questo caso, potesse guardarlo e quindi ci potesse essere dentro un po' di malizia. Anche tutto quello, comunque, appunto, è la sensazione giusta. Lui si vergogna e dice: ma come mai mi vergogno? È un gatto, non ci dovremmo vergognare di fronte agli animali. E invece da lì comincia tutta una riflessione sul modo in cui noi umani, storicamente, la filosofia e la scienza, questo è un libro sulla filosofia e la scienza, hanno trattato e trattano tuttora gli animali. Quindi un bel libro, veramente un bel libro, e molto un libro che ti lascia un po' spiazzato, no? Perché non è nemmeno un libro di un animalista che dice: difendiamo i diritti degli animali. Ne abbiamo visti tanti, ce ne sono da sempre di persone che difendono i diritti degli animali, però qui è proprio una cosa un po' più radicale, è proprio gli animali come qualcuno di completamente diverso da noi, che ha uno sguardo, che ha un punto di vista, quindi ha interessi, ha motivazioni. Che comunque ci osservano e in qualche modo forse ci giudicano. Infatti lei, Cimatti, forse ha anche qualche teoria su questa cosa qua. Ora ci giudichino, speriamo di no, pure loro, ci giudicano tutti, ci giudica anche la banca, come dire, lo spread. La BCE, sì. Sono pure i gatti che ci giudichino. Gatti tedeschi. Appunto, i gatti tedeschi, cattivissimi, lì con gli stivali chiodati. No, comunque, certo, i gatti, gli animali in generale, forse più che ci giudicano, forse ancora peggio, proprio perché non ci giudicano, ci sentiamo così certe volte cattivi con loro. La cosa, no, nelle immagini religiose, mentre Adamo ed Eva vengono scacciati dal paradiso, gli animali ci rimangono nel paradiso, perché appunto non giudicano, vivono e basta. E forse siamo noi che giudichiamo loro, siamo sempre lì, in fondo quel libro dice sempre: siamo sempre lì a giudicare gli animali, non pensano, non parlano, non hanno la mano. Tante cose che sono state dette degli animali da parte di filosofi e scienziati: non hanno la mente. Ora tanti scienziati dicono: hanno la mente, ma non proprio la mente come la nostra. Hanno i pensieri, ma non proprio i pensieri. È un continuo dire quello che si può negli animali non sarebbero. Lei su questa cosa ci sta facendo pure il corso quest'anno lì all'Università della Calabria, però mi pare di capire che lei ci suggerisce di non tanto pensare a cosa penseranno gli animali, che però è una cosa interessante, cercare di mettersi, ma cambiare, passando dagli animali, cambiare questo nostro rapporto che abbiamo con tutto ciò che vive e che non siamo noi, no? Esattamente questo, cioè questo corso che faccio da diversi anni, perché appunto io insegno filosofia del linguaggio, quindi mi interesso anche dei campi un po' più al confine, anche di quelli che hanno forme di comunicazione diverse da noi, come gli animali o proprio situazioni in cui proprio non c'è la parola. E allora quel libro secondo me è interessante appunto perché non dice semplicemente no, anche i cani oppure i delfini poverini hanno un'anima, sono buoni, sono come noi, ecco questo continuo tentativo di dire che sono come noi, intelligenti, capito, come se fossimo noi il riferimento, siccome sono come noi vanno difesi. No, vanno difesi se vanno difesi perché non sono come noi. In fondo la grande sfida dell'animalità è tenere in considerazione gli animali perché sono diversi da noi, non perché sono come noi, perché allora poniamo che scopriamo domani che gli animali veramente sono diversi da noi, che hanno dei pensieri molto diversi dai nostri, no? E allora che facciamo? È lecito sottoporre a tutte le sevizie a cui li sottoponiamo? No, secondo me non è, non può passare di lì la considerazione degli animali, cioè dal fatto che sono come noi, anche perché ancora vorrebbe dire che noi siamo il riferimento della creazione, che noi siamo quelli che giudicano. Mm-hmm. Ma non ci stanno lì, ci guardano appunto, se ci chiedono qualcosa ma ti sei visto te? Ma per chi ti credi di essere? Sì, un po' il problema è nostro, che umanizziamo tutto, spesso umanizziamo anche le macchine, cioè parliamo come se dovessero in qualche modo risponderci o assecondarci. È un po' questo, è un po' proprio, siamo una strana specie animale, che poi siamo animali come noi, anche noi naturalmente, che però fa finta di non esserlo, si dimentica continuamente di essere un animale, si mette in un'altra categoria, in questo e scienziati e filosofi sono proprio i padroni, pensi un po' a questa definizione che ci siamo dati, no? Noi siamo Homo sapiens sapiens, siamo super sapiens. E siamo un animale che definisce se stesso come un animale speciale e mette tutti gli altri animali in un'altra scatola. È troppo eccessivo e oltretutto è un punto di vista che si riverbera anche su altre cose, insomma ci sentiamo dominatori del pianeta. Dietro questo atteggiamento, no, per cui siamo sempre noi qualcuno che decide dove mettere gli altri, c'è tanti altri fenomeni della nostra esistenza, cioè, pensiamo al razzismo, che cos'è se non un'operazione attraverso la quale qualcuno per qualche ragione crede di essere superiore. Quelli che hanno i capelli ricci e hanno la pelle scura sono umani, però fino a un certo punto non proprio come noi. Come lo facciamo continuamente questa operazione? Allora l'idea di una riflessione filosofica sull'animalità vorrebbe essere un po', in realtà come sempre non si parla tanto degli animali quanto di noi altri, su questo strano essere che pretende di essere così diverso da tutti gli altri viventi. Felice Cimatti, grazie e buon lavoro. Grazie a voi e grazie ancora per avermi invitato. Buonasera. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Cosa possiamo dire? Speravamo sotto Natale che ci arrivasse il bosone, in effetti ci siamo quasi. Ciao Barbara. Ciao Federico, buonasera a tutti. Barbara Gallavotti, allora, spero che tu abbia comprato le quotazioni del rintracciamento del bosone sulla piazza di Londra, quando erano 12-1, perché sono scese 3-1 in queste ultime ore. Sono scese molto, però sai come quando si gioca in borsa non si può mai essere sicuri di niente. Certo, però io le ho comprate quando erano 12-1 e mi devono dare 12 se viene rintracciato. Ci siamo quasi, per parlare del bosone abbiamo ospite questa sera. Abbiamo ospite un fisico teorico, si chiama Gino Isidori, in questo momento si trova al CERN e da molto tempo si occupa di studiare il bosone di Higgs, concentrandosi in particolare sugli effetti che potrebbero avere sulla nostra visione dell'universo diverse masse di questo bosone. Gino Isidori, buonasera. Buonasera. Dunque, questo benedetto uomo di Higgs me lo state tirando, ce lo state tirando proprio allo spasimo, non ha più 20 anni. Io credo che lui contasse che questa fosse la volta buona. Che cos'è? È un tre quarti? Come possiamo definirlo? È un tre quarti di bosone? È un problema statistico, quindi difficile dire un tre quarti, forse un po' troppo, però sì, diciamo ci siamo quasi, ma è chiaro che ancora non c'è una certezza. Non c'è ancora una certezza. No, perché questo uomo non ha 20 anni, come dicevo prima, insomma è un Nobel certo questo, no? È praticamente già assegnato. Poi bisognerà vedere a chi viene dato lì al CERN, perché un contributo a quelli che fanno gli esperimenti in termini di premi, credo che vada dato, no? Mi sembra che stiamo un po' vendendo la pelle dell'orso, Federico. Capisco che tu ci tieni alle tue azioni di bosone. Però sì, 12-1, sì. È presto. In generale voi due mi state dicendo che è troppo presto? Sì, assolutamente, è presto. La cosa interessante è che ormai il range, diciamo, la zona in cui questo bosone si può nascondere è molto piccola, è stato confinato in una spazio di parametri molto molto piccolo e sembra essere proprio lì, diciamo, le indicazioni sono che sia lì, però ancora non possiamo dire con certezza che è veramente lì. Sì. Quindi bisogna ancora avere un po' di pazienza. C'è odore di bosone, insomma, ci sono delle tracce. Mi pare che Bertolucci, che è ormai anche un nostro amico direttore di Arsen della trasmissione, abbia fatto un esempio dicendo che stiamo cercando un pesce, abbiamo trovato una pinna praticamente. Ecco, sì, mi sembra una buona le sembra una buona immagine. Barbara. E poi soprattutto non stiamo più cercando nel mare, stiamo cercando in uno stagno, e entro il 2012 i fisici hanno promesso che lo svuoteranno, così a quel punto dovremo sapere se c'è dentro il pesce oppure no. C'è una cosa abbastanza interessante che penso dovremmo spiegare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, che è, viene fuori nelle cronache, nei tanti articoli per esempio usciti sui quotidiani, e che però viene buttata un po' lì. Ci sono due macchine, due rivelatori, no? Che devono in modo indipendente, quindi senza scambiarsi i dati, insomma, capire se abbiamo a che fare col bosone. E quello che viene detto è che i due devono recuperare la stessa immagine, diciamo, dell'impatto. Che cosa vuol dire esattamente questo? Cioè devono avere, pur essendo due macchine molto diverse, avere la stessa fotografia, per dirla semplicemente, Isidori? Mi sembra un'ottima immagine. In realtà i due esperimenti devono fare diverse fotografie in diversi canali, ovvero questo bosone decade in modi differenti. E la cosa interessante è che nella zona di massa in cui sembra essere può decadere con probabilità abbastanza alta in diversi modi, e quindi i due esperimenti dovrebbero vedere la stessa probabilità di decadimento nei diversi canali allo stesso modo, e questa sarebbe veramente la conferma al 100% dell'esistenza del bosone, e soprattutto che è il bosone previsto dal modello standard, perché potrebbe anche essere qualche altra cosa. Certo, quando lei dice decadimento, per spiegarlo, vuol dire che insomma appare, ma è una particella che rapidamente scompare, no? Se ne va, bisogna avere una traccia in quelle frazioni. In termini temporali, quanto tempo ce lo vediamo questo bosone? Noi non lo vediamo mai, in realtà vediamo soltanto... No, certo. Compare talmente rapidamente che vediamo soltanto la sua traccia. Soltanto la sua traccia, insomma, sono tempi assolutamente infinitesimali. Senta Isidori, volevo chiederle questo. C'è come un chuck, no? Nei film, quando si fanno le riprese in studio, insomma. Si parte e da quel momento che cosa succede? Cioè le due macchine vanno a caccia del bosone. Cosa lavorano? Per quante ore? Quanta gente ci lavora sopra? Com'è proprio il meccanismo dell'esperimento quando si parte e si va a caccia? Dunque, c'è prima tutta una fase di raccolta dei dati. Okay, questa fase di raccolta dei dati funziona in tempo reale, cioè la macchina produce collisioni e i risultati delle collisioni vengono registrati diciamo dalle due collaborazioni sperimentali. E questa fase è una fase lunga, diciamo, dura diversi mesi, perché bisogna collezionare tanti eventi e poi poterli analizzare. Poi c'è la parte dell'analisi dei dati. A un certo punto si decide che sostanzialmente l'analisi dei dati è completa, ci sono sufficienti dati per poter fare l'analisi. Allora a quel punto le collaborazioni, spesso quando si interrompe la presa dati e si inizia a guardare ai dati stessi, e qui diversi gruppi di persone in modo indipendente anche all'interno della collaborazione si mettono a caccia, a guardare questi segnali molto piccoli in un fondo molto molto grande di segnali invece poco interessanti, e questa caccia dura un mese, due, tre, a seconda di quanti dati sono stati collezionati. In questo caso sostanzialmente la presa dati è finita a novembre e diciamo la caccia vera e propria è durata un paio di mesi. Sì, quindi io prima ho dato un'informazione sbagliata, perché c'è un esperimento che praticamente è continuo, la macchina continua a produrre, no? Urti, e continua a produrre immagini, e poi a un certo momento si decide di analizzare tutte queste cose prodotte, e lì si deve andare a trovare la traccia. Non c'è un momento specifico in cui c'è, come dire, un esperimento cruciale, c'è un esperimento in continuo. Sì, è senz'altro in continuo. Questa è la... Va bene, vogliamo provare adesso allora a ricordare un po', ne abbiamo già parlato in trasmissione, che cosa può darci questo bosone se riusciamo a individuarlo e accertarne l'esistenza? Ma il bosone di Higgs è fondamentale perché da un lato è l'ultimo tassello del modello standard, la costruzione teorica che attualmente consideriamo descrive molto bene tutta la fisica delle interazioni fondamentali, ma riteniamo anche che sia il primo tassello per capire cosa c'è al di là del modello standard, perché questo settore di Higgs, questo settore che descrive tutte le masse delle particelle, è un settore altamente instabile, quindi misurando la massa riusciamo a capire se e come il modello deve essere esteso. Ma una cosa che colpisce è che c'è una grossa eccitazione intorno al valore della massa di questo bosone che sarebbe stato indicato da questi esperimenti CMS Atlas. Perché per voi è così importante sapere esattamente quant'è la massa? Non vi basta sapere che esiste alla fin fine? No, non ci basta sapere che esiste perché in realtà la massa non è predetta dal modello, è un parametro libero, però viceversa in molte estensioni del modello si predicono valori diversi per questa massa, quindi questo valore della massa ci dà un'indicazione molto importante su come estendere il modello, perché più o meno tutti pensiamo che questo modello standard debba essere esteso in qualche modo, perché per esempio non descrive la materia oscura che osserviamo nell'universo, quindi non è un modello completo per vari motivi, però finora funziona benissimo nella fisica degli acceleratori, nella fisica che possiamo studiare sulla Terra, diciamo, a parte le considerazioni di tipo astrofisico, e quindi abbiamo pochissime informazioni su come estenderlo, e una di queste informazioni che speriamo di ottenere è proprio quella che viene dal valore specifico della massa del bosone di Higgs. Ma perché è così importante questo bosone al punto che è stato chiamato la particella di Dio? Dunque, conviene forse distinguere innanzitutto il bosone di Higgs dal campo di Higgs. Allora, il modello standard per funzionare ha bisogno di quello che chiamiamo il campo di Higgs, che è una specie di mare diffuso, ok, interagendo col quale tutte le particelle acquistano massa. Per questo diciamo, ha questo ruolo molto importante, perché nel modello standard se non ci fosse questo campo non potremmo descrivere le masse di tutte le particelle elementari, diciamo, degli elettroni e dei quark. È una cornice generale, quindi. Sì, diciamo, è proprio un campo, un po' come il campo elettromagnetico, però con delle proprietà molto diverse, proprietà tali che permettono alle particelle, interagendo con esso, di acquisire massa. Questa però è un'ipotesi teorica, diciamo, l'esistenza di questo campo, che aveva bisogno di una conferma sperimentale vedendo, diciamo, un'eccitazione del campo, cioè quindi una prova, se vogliamo, più chiara dell'esistenza che esiste questa specie di mezzo, e l'eccitazione del campo è quello che chiamiamo il bosone di Higgs. Il bosone di Higgs in un certo senso è l'eccitazione di questo mezzo diffuso che dà massa a tutte le particelle. Insomma, se il mezzo diffuso, se il campo di Higgs è un mare, il bosone di Higgs è l'onda. Esattamente, esattamente. Quindi vedere che esiste quest'onda dà una prova di tutta la costruzione teorica, appunto, su cui si basa il modello. Per questo ha una grande importanza. Non è una particella come le altre, è la particella che dimostra l'esistenza di questo mezzo diffuso che dà massa a tutte le altre. Quindi non è solo un pezzo mancante, ma è qualcosa che completa tutto, anche dei buchi del modello che stanno da altre parti. Sì, in un certo senso è veramente la base della costruzione di tutto il modello. Grazie Gino Isidori. E grazie a voi. E grazie anche a te Barbara, ciao. Grazie Federico, buonasera a tutti. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Ci siamo, anche in questa puntata siamo arrivati al momento del quiz. Quale di questi tre paesi consuma più energia pro capite in un anno? Allora, gli Stati Uniti, ci scriverete USA, il Giappone, scriveteci Giappone, 3, l'Islanda, ci scriverete Islanda. Il sistema è sempre lo stesso, con un SMS al 349-238-6666. Il libro che si vince, è Senza Colpa, di Felice Cimatti, editore Marcos. I Marcos, con Cimatti abbiamo appena parlato, però Senza Colpa è una fiction scientifica. Questo libro è offerto da libreriarizzoli.it. La soluzione a questo quiz la sentirete più avanti. Mebius presenta Nano Channels. Il progetto europeo sulle nanotecnologie. e questa sigla che adesso sta sfumando accompagnerà diversi interventi che qui da Mebius sentirete su un tema particolare, che è quello delle nanotecnologie, una rivoluzione grande, trasversale, che sta per arrivare. Lo facciamo perché Mebius partecipa a un progetto europeo che si chiama Nano Channels, che è partito da più di un anno e che ha come obiettivo quello di riuscire a trovare dei modi per comunicare i tanti aspetti, le tante facce anche problematiche che ci possono essere dentro questa rivoluzione nanotecnologica. Quindi una serie di appuntamenti, e il primo, questo che abbiamo scelto, si interessa dei nanofarmaci e quindi dei grandi cambiamenti che attraverso le nanotecnologie potranno arrivare nelle terapie. Per parlare di questo tema ho qui con me questa sera Luisa Filipponi. Buonasera Filipponi. Buonasera. Che è consulente scientifico del progetto NanoChannels e poi si interessa da tempo di comunicazione che riguarda le nanotecnologie. E poi ho anche Daniele Ovadia. Buonasera Daniela. Buonasera. Collega da tanti anni impegnata nell'informazione proprio di tipo biomedico, e tu hai seguito, stai seguendo insomma questa rivoluzione nanotecnologica. Allora incomincio però con Luisa Filipponi, perché il progetto NanoChannels ha fatto una grande inchiesta a livello europeo, quindi coinvolgendo diversi paesi. Un po' i numeri di questa inchiesta, Luisa. Sì, buonasera. Allora, l'inchiesta è stata svolta nell'aprile dello scorso anno e ha coinvolto praticamente tutti i paesi europei e anche Israele, perché è coordinatore del progetto. Sono state raccolte 1334 risposte, di cui 270 circa provengono dall'Italia. E l'inchiesta è stata svolta su due livelli, sia attraverso un questionario online a cui si poteva rispondere nelle varie lingue del, diciamo, del paese di appartenenza, ma anche attraverso degli incontri diciamo faccia a faccia, dei focus group, che sono stati svolti con dei gruppi particolari, diciamo, di interesse, quindi atleti, genitori, consumatori e anche persone, diciamo, più anziane. Quindi si è andato a fare un'indagine sia per comprendere cosa queste persone sanno circa le nanotecnologie, sia per quanto riguarda i benefici che anche per quanto riguarda le possibili implicazioni a livello di rischio o implicazioni etiche, e anche quali possono essere i mezzi di comunicazione più efficaci per sia diffondere questa conoscenza, ma anche coinvolgere direttamente il pubblico nel poter esprimere proprie opinioni o perplessità a riguardo. Bene Luisa, nell'inchiesta c'è un focus particolare che riguarda le nanotecnologie applicate alla salute, i nanofarmaci che, ricordiamo, hanno la caratteristica di poter raggiungere direttamente nel nostro corpo il punto in cui c'è la patologia, e quindi dovrebbero avere una ben minore invasività rispetto alle altre medicine, quelle che abbiamo avuto fino ad oggi. Luisa, dall'inchiesta che cosa viene fuori? Prima di tutto c'è da dire che tra le persone che hanno risposto, chiaramente al survey, come si può prevedere, molte ne hanno sentito parlare, perché questo appunto è una tematica a cui evidentemente avevano interesse a rispondere, ed è interessante anche notare che molte hanno delle conoscenze già sulle potenziali applicazioni mediche e anche molte aspettative a questo riguardo. In generale possiamo dire che quando si parla di prodotti di consumo generici non c'è molto interesse a conoscerne i dettagli, soprattutto i dettagli tecnici, però quando si tratta di applicazioni mediche le cose cambiano, l'interesse è molto grande e c'è anche una percezione diciamo del potenziale rischio che si abbassa molto, perché chiaramente la percezione che queste applicazioni possono risolvere dei problemi concreti delle persone o delle persone a loro vicine è una sensazione molto, molto forte, quindi di grande interesse conoscitivo. Daniela Ovadia, credo che non ti sorprenda questo fatto, però è abbastanza importante che venga confermato per una grande rivoluzione come questa. Non ti sorprende il fatto che ci sia un'accettazione elevata del rischio nel momento in cui si parla di salute e di malattie, di terapie? Però dici prima quali sono, così, delle opinioni diffuse all'interno di chi fa ricerca rispetto effettivamente alla possibilità che i nanofarmaci possano rappresentare una rivoluzione. C'è questa sensazione, quest'idea? Assolutamente sì, i nanofarmaci sono sicuramente uno dei filoni di ricerca più promettenti, specialmente nell'ambito dell'oncologia e nella ricerca sulle malattie cerebrali e cardiovascolari per la loro struttura e la loro natura. Siamo in una fase di ricerca ancora precoce, nel senso di laboratorio o in alcuni rari casi già nel modello animale, e quindi certamente le aspettative sono tante, anche i dubbi sono tanti, nel senso che si spera di riuscire a ottenere grandi risultati e nello stesso tempo ci si chiede che cosa succederà nell'interazione tra questi farmaci nano e i sistemi biologici come è il nostro organismo, perché ancora non è chiarissimo qual è il modo con cui le particelle, diciamo così, a livello nano si comportano quando sono in un organismo vivente. Hanno dei comportamenti atipici rispetto alla materia in generale, alle leggi della materia che conosciamo, ed è esattamente questo il punto su cui si sta facendo ricerca. Perché la particolarità del nanofarmaco dovrebbe essere quella di riuscire a andare proprio in prossimità del punto in cui la patologia si esprime, tipicamente per esempio un cancro. Una sostanza nano è in grado di entrare direttamente nella cellula. Ecco, ma in questo però, Daniela, dovrebbe esserci un grande vantaggio per quanto riguarda gli effetti collaterali, perché effettivamente i farmaci che abbiamo usato fino adesso, d'altronde basta leggere i bugiardini, vanno a curare qualcosa ma poi possono creare un sacco di problemi intorno. Però insomma non è così banale. La differenza è proprio questa: se questi farmaci si comporteranno bene dal punto di vista della loro interazione con la materia organica, allora avremo ottenuto un ottimo risultato, perché sono farmaci intelligenti, in grado di andare esattamente dove servono, ma soprattutto di andare solo dove servono, cosa che i farmaci in generale che usiamo, diciamo quelli più comuni, per esempio nel cancro, i chemioterapici, sappiamo benissimo uccidono le cellule cancerose, ma anche cellule sane, perché sono poco specifici nella loro azione. Mentre invece dal punto di vista della sperimentazione non possiamo dire allora che i nanofarmaci sono come gli altri farmaci, così in quanto tempo li eliminiamo quelli classici, sui nano non sappiamo ancora nulla di ciò. È così, e soprattutto dobbiamo intenderci su cosa diciamo quando diciamo nanofarmaci, perché spesso l'aspetto nano non è tanto nella molecola chimica o nell'anticorpo che somiglia un po' ai farmaci biologici che già si usano, quanto al vettore, sul vettore, cioè sulla una sorta di apparecchio di costruzione nano che noi viene prodotta in laboratorio per trasportare quella molecola esattamente nel punto che serve. Quindi diciamo magari il farmaco è un farmaco già utilizzato, ma noi lo usiamo in quantità piccolissime perché lo possiamo attaccare a un trasportatore che lo porterà esattamente al bersaglio previsto. Grazie Daniela Ovadia, grazie Luisa Filipponi, e poi con le nanotecnologie ci sentirete altre volte. In modo molto azzardato, Chiara, si potrebbe parlare di Van Gogh e la televisione, ma dobbiamo andare assolutamente in punta di penna. Perché... Van Gogh e la discoteca, mi viene anche da dire. Perché c'è la luce di Wunda. E ospite con noi questa sera Gianluca Valentini. Buonasera Valentini. Buonasera. Docente del Politecnico, ricercatore del laboratorio MIDAR, che è un laboratorio transdisciplinare tra fisica e chimica, e voi lavorate anche su il patrimonio storico-culturale, no? Artistico. Sì, noi abbiamo una tradizione ormai consolidata di sviluppo di tecniche diagnostiche per opere d'arte. Esatto. E avete fatto un buon lavoro importante su un quadro, un acquerello, che è strano, di Van Gogh. Sì, abbiamo avuto questa esperienza molto interessante, che nasce da una esigenza di monitoraggio dell'opera in relazione a un suo trasferimento temporaneo in altra sede. E nel corso di questa opera di monitoraggio, quindi di controllo delle condizioni generali del dipinto, abbiamo potuto analizzare la fluorescenza emessa dal quadro con eccitazione mediante luce ultravioletta, e abbiamo trovato delle risultanze non comuni, particolari, sì, molto particolari direi. Cioè c'è fluorescenza in generale nei pigmenti, però in questo caso voi avete trovato, anche nei pigmenti antichi, però qui avete trovato un'intensità della fluorescenza un po' particolare. È quasi una fosforescenza, per intenderci. Sì, certamente, noi siamo abituati a trovare fluorescenza nelle opere d'arte, in particolare nei quadri. Questa però è dovuta generalmente alla frazione organica, cioè a quei materiali organici come per esempio l'uovo o altre colle che venivano usati dai pittori per impastare i colori. Quindi la frazione organica senz'altro emette luce di fluorescenza con eccitazione ultravioletta. In questo caso però a emettere fluorescenza non è tanto la frazione organica quanto il colore stesso, in particolare i bianchi. Per giunta questa fluorescenza è risultata anche molto intensa e con un tempo di vita che per noi è estremamente lungo. Ecco, io quando dico lungo devo precisare che parliamo di dei milionesimi di secondo, quindi certo, un po' più di un milionesimo di secondo. Sì, che però con un'analisi, con le vostre tecniche molto ovviamente avanzate, è parecchio. Ecco. È tanto. Sì, potrei dire che è 1000 volte più lunga del solito. Ecco, questo forse è un parametro che può essere significativo. E si può fare un'ipotesi del perché? Esatto. Ma qui è difficile trovare veramente la formula chimica del materiale che è stato impiegato da Van Gogh, però si può dire che all'epoca in cui era attivo Van Gogh era in corso la sostituzione dei pigmenti antichi con pigmenti di sintesi moderna, in particolare il bianco, perché il bianco usato nell'antichità era prevalentemente carbonato di piombo, che è sicuramente tossico. Ecco, invece quindi questo qui è diverso. Sì, decisamente diverso, su questo siamo assolutamente sicuri. E all'epoca si stava sviluppando il cosiddetto bianco di zinco, bianco di zinco è ossido di zinco in pratica, che poi è diventato un pigmento largamente diffuso. E nella stessa epoca cominciavano a essere presenti i primi pigmenti fosforescenti. Pensate per esempio ai tubi catodici usati... Qui un po' il riferimento che faceva Federico in apertura alla televisione e poi alla discoteca. Cioè c'era una chimica che si incominciava a usare nei tubi catodici e una chimica moderna per i pigmenti. Lì voi dite, forse, per carità, è un'ipotesi tutta da esplorare, queste due cose si sono incrociate e Van Gogh aveva per le mani un pigmento che derivava moderno. È così che è andata, secondo sicuramente un pigmento moderno, e noi riteniamo che questo pigmento avesse delle caratteristiche, come dire, duplici. Da una parte ha una base di ossido di zinco, dall'altra parte però ha questa proprietà di luminescenza lunga, chiamiamola pure fosforescenza, che è proprio tipica dei pigmenti dei tubi catodici. Chiunque abbia visto i televisori negli ultimi 20 anni, visto che ormai li stiamo sostituendo con altri dispositivi, sa bene cosa intendo quando parlo di luminescenza. Certo. Quella luminescenza verde dei primi, bianco-verde, dei primi televisori in bianco e nero. Per chi fosse curioso può trovare le immagini che ci avete inviato, che sono molto suggestive, sul nostro sito www.moebiusonline.eu, e per onor di cronaca dobbiamo dire il titolo di questo quadro. Nel quadro Le Breton et le Pardon de Pont Aven del 1888. Grazie Valentini. Grazie a voi e saluti a tutti. Arrivo. Buon lavoro. Ricerca. Arrivederci. Grazie. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Ed ora brevemente vi parlo di Mitchell Joachim, anzi ve lo farò ascoltare, ve lo doppierò io. È un architetto di New York con uno studio a Brooklyn, abile, geniale, molto noto per le sue provocazioni, che però non sono mai prive di una suggestiva intelligenza di fondo. Lui si interessa di, è all'interno, diciamo, di questi grandi progetti sulle smart city, sulle città più intelligenti di quelle che abbiamo oggi, e però all'interno di tante cose serie che fa si dedica anche a delle provocazioni. Ve lo faccio ascoltare, ve lo doppio appunto, in un passaggio di una sua conferenza. Why grow homes? Because we can. Right now America is in an unremitting state. Perché coltivare case? Perché possiamo farlo. Oggi l'America è in uno stato traumatico permanente. C'è una ragione precisa, cioè che tutto è Mac gente, Mac auto, Mac case. Io sono un architetto e me la devo vedere con queste cose. Bene, allora noi possiamo fare case come alberi, aggiungendo un po' di intelligenza e di scienza in ciò che è già naturale. Possiamo indurre nelle piante delle strutture con specifiche forme abitative che poi ovviamente veramente si inseriscono nell'ambiente. Possiamo avere milioni di case fatte in questo modo. Si potranno coltivare case per far crescere in una decina di anni dei villaggi, che oltretutto si ingoieranno un sacco di CO2. Ma non solo possiamo fare case albero. Nel nostro studio di Brooklyn stiamo lavorando con materiali che sono normalmente impiegati nella medicina rigenerativa e nell'ingegneria dei tessuti artificiali, pensando a cosa potrà essere un futuro nel quale la biologia e l'architettura collaboreranno. Così pensiamo ad abitazioni carnose, per così dire, con cellule di grasso artificiale usate come isolanti, strutture ciliate che catturano l'energia del vento. Fatty cells as insulation, cilia for dealing with wind loads and... E questo avete sentito, pazzo, geniale, molto simpatico, Mitchell Joachim, architetto di New York. Detto così, vivere a 2000 watt sembra una di quelle cose, come dire, vivere pazzamente, spensieratamente, invece è tutt'altro. Ciao Alberto. Ciao Federico, buonasera a tutti. Sì, tutt'altro, perché in realtà si tratta di ridurre il consumo, quindi è un obiettivo di diminuzione. Qual è il problema? Dai. Il problema è che la risposta che di solito si dà al problema appunto dell'esaurimento delle fonti fossili, al problema delle emissioni di gas sì. che alterano il clima, all'accessibilità anche ai servizi energetici, la risposta che si dà di solito è quella di aumentare l'efficienza e usare le energie rinnovabili, le fonti rinnovabili. Invece in Svizzera abbiamo un esempio che va un po' in controtendenza, che punta tutto sulla riduzione dei consumi. Ed ecco i 2000 watt come obiettivo. E ne parliamo con? Ne parliamo con Marco Morosini, che è con noi. Che è qui con noi. Buonasera. Buonasera Morosini. Del Politecnico Federale di Zurigo. Uno dei politecnici più prestigiosi, direi, a livello mondiale. E che ci può spiegare cos'è questo progetto, perché appunto la notizia è anche che si tratta di un progetto governativo, sì. Vivere a 2000 watt. Una roba che si vuol far partire, seriamente. È già partita, è qualcosa di più di un progetto, è la strategia ufficiale della Svizzera dal 2002, quando il governo svizzero decise per i prossimi 50 anni che la strategia energetica della Svizzera è quella di portare i consumi energetici dagli attuali 6.000 watt pro capite a 2.000 watt pro capite, che equivalgono ai consumi energetici della Svizzera degli anni 60. Ecco, per esempio, in Svizzera cos'è 6.000, ne ha detto, no? 6.000 watt pro capite, in media. Sì, in media, che è un flusso di energia che costantemente arriva al singolo cittadino. È un flusso continuo di energia, un po' difficile da immaginare per un non tecnico. Immaginatevi un rubinetto da cui esce una goccia di petrolio al secondo per tutto l'anno. Questa sarebbe la società a 2000 watt, quella risparmiosa a cui si tende. Invece attualmente escono 3 gocce di petrolio al secondo, giorno e notte, pro capite. E in altri paesi come siamo messi? In altri paesi i consumi possono essere molto diversi. Questi 6000 watt pro capite più o meno li ritroviamo in quasi tutti i paesi più ricchi europei. Altri paesi, a un estremo della scala, abbiamo per esempio paesi africani o paesi come Bangladesh, 500 watt pro capite, e dall'altra parte abbiamo gli Stati Uniti, 12.000 watt pro capite, e in testa alla classifica di chi consuma di più, pochi lo sanno, l'Islanda, 16.000 watt pro capite. Però l'Islanda è un caso molto particolare, perché sono quasi tutta questa energia viene dalla geotermia. Ogni casa c'ha un geyser. Un piccolo paese in cima a un vulcano, gli basta prendere il calore che hanno sotto. E così abbiamo anche risposto al quiz, è l'Islanda. È l'Islanda, sì. Sì, però è un po' un trucco questa cosa dell'Islanda, perché hanno un'energia che nessun altro ha. Insomma. Nessun altro ha in quella misura, non l'energia geotermica, sì. Come si fa a ottenere questi 2000 watt? Basteranno? Sembra impossibile. Dunque, bisogna specificare anche un po' meglio cosa sono questi 2000 watt e perché questi 2000 watt. Questo è il flusso di potenza per soddisfare tutti i bisogni energetici pro capite della Svizzera nel 2050, questo è l'obiettivo. Non stiamo parlando quindi solo di elettricità, con i watt quasi tutti pensano solo all'elettricità, stiamo parlando di tutta l'energia, quella per muoversi, per riscaldare, per raffreddare, per produrre le merci, per trasportarle. Importante notare che la previsione per il 2050 è di un probabile aumento del prodotto lordo svizzero del 60%, quindi un aumento anche della qualità e della quantità delle merci e dei servizi. Questo vuol dire quindi con solo un terzo dell'energia attuale garantire fra 50 anni non il benessere di oggi, ma addirittura più benessere materiale, il benessere che avremo nel 2050 e che sarà fatto anche di molta tecnologia che adesso nemmeno ci immaginiamo. Come si fa ad arrivare da qui a là è una cosa che si scopre strada facendo, perché non ci sono, secondo me, questo è un mio giudizio, non ci sono ancora provvedimenti plausibili per poter ritenere realistico un tale aumento di 5 volte dell'efficienza energetica. Un terzo d'energia per 60% in più di prestazione vuol dire 5 volte più efficienti sul piano dell'energia. Però ci sono dei primi approcci che sono sicuramente, che vanno sicuramente nella direzione giusta, semplicemente dovrebbero essere aumentati, intensificati, accelerati. Uno di questi approcci è quello di tassare tassare di più l'uso d'energia, di tutte le energie, principalmente delle energie più problematiche come quelle fossili, ma non solo queste, e di tassare di meno i redditi da lavoro e i redditi in generale. È quella che viene proposta già da diversi anni sotto il nome di riforma fiscale ecologica, spostare le tasse sui dal lavoro ai consumi. Ecco, ma lei dice aumentare l'efficienza non basta, perché se aumentiamo l'efficienza c'è il rischio che poi manteniamo i consumi uguali, perché l'energia ci costa meno e quindi ne usiamo comunque tanta per fare anche altre cose che adesso non faremmo. Quindi c'è tutto un problema culturale proprio anche da mettere in moto. Certo, non lo dico solo io, lo dicono centinaia di studiosi, di economisti che negli ultimi 20 anni si sono dedicati a studiare i fatti, non le teorie, ma proprio i fatti empirici del cosiddetto effetto rebound. Rebound vuol dire rimbalzo, effetto rimbalzo. È quell'effetto secondo il quale con l'aumento dell'efficienza energetica specifica, cioè di un singolo tipo di consumo, l'automobile, la lavatrice, l'illuminazione, il servizio equivalente, viaggiare, illuminare o lavare i panni, costa di meno. Lasciamo perdere lavare i panni, ma viaggiare e illuminare, questi sono due casi tipici dove il fatto che grazie a più efficienza queste prestazioni costano di meno, sono quindi accessibili a più persone e le persone che accedono a questi servizi ne consumano di più, per cui il risultato paradossale è quello che proprio grazie all'aumento dell'efficienza energetica ogni singola auto magari consuma di meno, ma ci sono più auto che viaggiano più chilometri, che sono usate più spesso, per cui alla fine si consuma di più. E questa non è una teoria, è quello che succede. Se guardiamo con distacco storico, è quello, direi io, che succede almeno da 10.000 anni, perché da 10.000 anni due cose continuano ad aumentare nella storia energetica dell'umanità. Uno, l'efficienza energetica, prima con la rivoluzione agraria, poi con la rivoluzione industriale, poi con le nuove tecnologie. E l'altro fattore che continua a aumentare parallelamente è il consumo totale di energia. Quindi se guardiamo la storia non possiamo aspettarci, secondo me, che per ridurre i consumi energetici basti l'efficienza energetica, proprio perché c'è questo effetto rimbalzo, effetto rebound. E quindi è importante anche capire che cos'è che vogliamo, che cos'è che intendiamo per benessere, perché se noi vogliamo... È fondamentale definire quello che intendiamo, definire con una certa area di consenso quello che intendiamo per benessere, perché per ora il dogma è che il benessere, che l'unico arbitro assoluto della definizione del benessere che ha bisogno è l'attore economico, è l'homus economico, è il cittadino libero che agisce solo nel proprio interesse. Questo è il dogma vigente. Sappiamo però che questo ci porterà alla rovina se venisse applicato a 10 miliardi di persone che volessero legittimamente, bisogna dire, consumare tanta energia quanto ne consumiamo noi oggi. Quindi le aspettative che ognuno di noi ha, prima di tutto noi, anzi soprattutto noi nei paesi industriali, devono essere commisurate alla consapevolezza dei danni che produce localmente e globalmente in tutto il pianeta l'uso di energia. Questo, se si acquisisce questa consapevolezza, ecco che alcuni servizi, alcuni merci, alcuni modi di vivere che forse la maggior parte di noi ritiene sacrosanti e indiscutibili, possono, io direi devono essere messi in discussione. Abbiamo bisogno tutti davvero delle fragole a Natale, abbiamo bisogno tutti di fare un viaggio intercontinentale in aereo ogni anno, abbiamo bisogno tutti di cambiare la macchina ogni 3 anni, abbiamo bisogno di automobili che sono costruite per fare 250 km all'ora e poi dopo viaggiamo a 50 km all'ora. Se rispondiamo sì a tutte queste domande, allora è inutile il benessere che diminuisce per certo. Quelle persone per cui è questo il benessere, bisogna dirlo, bisogna essere onesti. Sì, bisogna distinguere, la persona diminuisce. Bisogna distinguere i bisogni dai desideri, insomma. Sì, certo, nettamente. Sarebbe bello se fosse così semplice, in realtà no, perché ci sono dei desideri che costano poco o niente, poca niente energia, sono se prendo una lezione di musica, una lezione di tango, se vendo anche nel campo economico, se faccio dei massaggi a qualcuno, se imparo l'inglese, questo fa muovere molti soldi ma consuma poca energia e sono desideri più che legittimi. Se invece il mio desiderio è quello di usare tanto kerosene per andare fino dall'altra parte di un oceano, questo desiderio, che se abbiamo consapevolezza ecologica, oggi è meno legittimo. Tutto ciò è molto complesso da realizzare, però possiamo essere sereni perché è l'unica strada che possiamo percorrere. Qui io voglio anche ricordare il suo libro Futuro Sostenibile delle edizioni Ambiente del Wuppertal Institute, che le ha scritto insieme a Wolfgang Sachs. Io sono stato il curatore dell'edizione italiana di questo libro, che è stato scritto invece da 30 autori del Wuppertal, certo. Institute, ed è un po' un manuale su come rendere è sostenibile un paese europeo, che può essere l'Italia, nell'adattamento che ne ho fatto io, o la Germania, come per la quale il libro è stato scritto. Marco Morosini, grazie e buon lavoro. Grazie anche a voi. Noi chiudiamo qui Möbius. Come avete sentito, l'invito è a consumare meno. Adesso si avvicinano le feste, quindi possiamo incominciare già da adesso. Però mi sa che quest'anno ci verrà bene questa cosa del consumare meno, purtroppo. Va bene. Buona settimana a tutti e buona serata anche a tutti e a tutte.